20 Va ora in onda l'artiglio. Com'è bello qui. Oh, il telefono bianco. Oh, sognavo di avere un telefono bianco. I tuoi sogni sono i miei sogni. Per tutta la vita io mi ero chiesta come sarebbe stato da questa parte dello schermo. Vedi laggiù la città che si sveglia? Mm-hmm. Basta che tu lo chieda, è tua. Il mio cuore batte così forte. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 2010 dall'Artiglio, il vostro settimanale programma di approfondimento cinematografico. Prima di partire volevo ringraziare Corrado e Riccardo che dalla redazione di Mi sta stretto lo stivale si sono precipitati qui alla parte tecnica dell'Artiglio, compensando la defezione del nostro buon Fabio che adesso è in viaggio per Milano. E salutandolo cominciamo questa trasmissione, lo facciamo come di consueto andando a dare un'occhiata alla classifica al botteghino tanto in Italia quanto negli Stati Uniti per il weekend appena trascorso. Era prevedibile che qui in Italia, qui da noi, si piazzasse al primo posto degli incassi questo scontro fra titani, Clash of the Titans, il titolo originale di questa pellicola diretta da Louis Leterrier, che dunque si piazza al primo posto della classifica degli incassi settimanali al botteghino con un discreto risultato, insomma, supera i 3 milioni di euro di incasso, un risultato notevole che però non si avvicina neanche alla metà dell'incasso che fece registrare Alice in Wonderland nella prima settimana, che lo ricordiamo è stato di 8 milioni di euro, oltre 8 milioni di euro, e né tantomeno alla cifra stellare fatta registrare da Avatar con i suoi 9 milioni di euro incassati nella prima settimana di programmazione. Insomma, vediamo come se la cava questo Clash of the Titans alla sua seconda settimana di programmazione. La settimana prossima avremo occasione di controllare se il primo posto è riuscito a difenderlo in maniera strenua o se è caduto in basso come è stato ad esempio nella classifica statunitense che andremo ad osservare fra un po'. Si piazza dunque al primo posto questo scontro fra titani scalzando due titoli eccellenti, L'uomo nell'ombra di Roman Polanski che incassa questa settimana 740.000 euro piazzandosi al secondo posto nelle classifiche al box office, e segue Green Zone, il film di Paul Greengrass con Matt Damon al terzo posto con i suoi 558.000 euro di incasso. Una nota positiva, Basilicata Coast to Coast supera il milione di euro di incassi totali a questa seconda settimana di programmazione nelle sale italiane con un risultato inatteso e confortante tutto sommato. E dopo questa nota positiva una nota dolente, infatti non ce l'hanno fatta a piazzarsi nella top 10 nostrana tre dei film che avevamo segnalato la settimana scorsa, in particolare Fantastic Mr. Fox, I Gatti Persiani e The Messenger. Dunque ancora una volta vengono penalizzate pellicole di qualità che non vengono supportate però in fase d'uscita da un massiccio battage pubblicitario. Speriamo che possano risalire la china nelle prossime settimane facendo insomma leva sul meccanismo soprattutto di passaparola degli appassionati, come appunto è stato per Basilicata Coast to Coast, premiato dagli incassi questa settimana. Andiamo invece adesso negli Stati Uniti ad osservare che cosa è successo nel weekend scorso al botteghino. Incredibile la prestazione di Dragon Trainer, il film di animazione della DreamWorks Pictures, che dopo un avvio piuttosto claudicante torna a piazzarsi alla prima posizione con 20 milioni di dollari di incasso per la sola settimana appena conclusa, raggiungendo un totale stellare di 158 milioni di dollari. Segue al secondo posto nella classifica statunitense un film che ha creato una vera e propria spaccatura nella critica statunitense. Sto parlando di Kick-Ass, un film diretto da Matthew Vaughn e tratto dalla graphic novel omonima di Mark Millar. La storia è quella di un liceale che, stanco delle continue vessazioni ed umiliazioni, decide di diventare un supereroe. Il ragazzo entra dunque a far parte di un mondo di violenza e criminalità, è un mondo nel quale deve inoltre fare i conti con altri e ben più agguerriti vigilantes notturni. Ha creato, appunto, lo dicevamo, Kick-Ass, una vera e propria frattura nella critica cinematografica americana fra chi lo reputa uno straordinario prodotto, uno straordinario adattamento cinematografico della graphic novella omonima, e chi invece lo considera semplicemente spazzatura. Purtroppo l'uscita nelle sale italiane e la distribuzione italiana di Kick-Ass non è ancora stata fissata. Speriamo, insomma, che il problema possa essere risolto e che questo film possa essere apprezzato o meno anche dagli spettatori italiani. Terzo posto per Notte folle a Manhattan, alla sua seconda settimana di programmazione. È un film questo che si era piazzato addirittura al primo posto la settimana scorsa nelle classifiche al box office. E lo dicevamo prima, lo confermiamo adesso: scontro fra titani in caduta libera nelle sale statunitensi. Pensate, è passato da oltre 60 milioni di dollari incassati nella prima settimana a questi 15 milioni di dollari incassati invece alla terza settimana di programmazione. Davvero una prestazione deludente questa del film diretto da Louis Leterrier. Questa dunque era la situazione al box office italiano e statunitense nel weekend appena concluso, e passiamo adesso alla nostra rubrica delle news dal mondo del cinema. Una rubrica nella quale trova spazio anche il gossip, un gossip però inoffensivo, questo che vede protagonista Woody Allen. Il regista di Manhattan ha infatti confermato la partecipazione di Carla Bruni al suo prossimo lungometraggio. Il film, le cui riprese partiranno quest'estate, porta il titolo di Midnight in Paris. Sarà appunto girato nella capitale francese, una città particolarmente cara al regista di Manhattan, che torna ad omaggiarla dopo aver girato a Parigi in parte il film musicale del 1996 Tutti dicono I love you. E lei è New York, dove andate? A Parigi? Io, beh, cioè, ecco, sono di New York, ma mi sono sistemata a Parigi, però ecco, torno a New York continuamente perché l'adoro. E vedi, fondamentalmente io sono un uomo semplice, il mio ideale è vivere a Parigi e magari, non so, innamorarmi e passeggiare sotto la pioggia e ascoltare musica, che so, in particolare magari la quarta di Mahler. E dunque le riprese di questo Midnight in Paris cominceranno quest'estate a Parigi. Nel cast, oltre a Carla Bruni, figureranno anche Owen Wilson, Marion Cotillard e Katie Bates. Midnight in Paris, dunque il lungometraggio di Woody Allen, che segue il film You Will Meet a Tall Dark Stranger, in uscita il 23 settembre 2010 nelle sale statunitensi, e tra l'altro selezionato per partecipare fuori concorso al prossimo Festival di Cannes. E passiamo alla prossima notizia, una notizia piuttosto triste. Riguarda infatti la profonda crisi economica nella quale versa la storica casa di produzione Metro-Goldwyn-Mayer, casa di produzione che ha firmato capolavori del calibro di Via col vento, Il mago di Oz o 2001 Odissea nello spazio. La crisi economica nella quale versa la Metro-Goldwyn-Mayer si è particolarmente aggravata nelle settimane scorse a seguito del fallimento di un accordo di compravendita che era stato stipulato appunto qualche mese fa. È una crisi che continua a mietere vittime e stavolta si tratta di una vittima eccellente, perché è stato annunciato il rinvio a data da destinarsi del 23° capitolo della saga di James Bond. Bond 23, questo è il titolo provvisorio, non si sa se provvisorio o definitivo del capitolo. Avrebbe dovuto comparire ancora una volta Daniel Craig nei panni di 007, insomma la lavorazione è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi. Tra l'altro, regista del lungometraggio avrebbe dovuto essere Sam Mendes, regista estremamente quotato, firma di grandi successi come American Beauty, Jared o Era mio padre. La Metro-Goldwyn-Mayer aveva curato fin dal primo capitolo l'intera saga di James Bond, fin dal 1962, quindi con lo straordinario licenza di uccidere. E qui vorrei chiamare in causa il nostro DJ Corrado. Voglio chiedergli un parere personale sui vari James Bond che si sono alternati sullo schermo nel corso degli anni. Voglio chiedergli qual è il Bond che ha preferito. Ma allora, innanzitutto buonasera. Buonasera Corrado. Poi, vabbè, James Bond ha avuto un, diciamo così, diverse facce. È passato dal Lord inglese interpretato magistralmente da Sean Connery. Da Sean Connery, che secondo me, ripeto, è il preferito, cioè per me. Se tu dici chi è 007, Sean Connery, no? Anche gran parte del pubblico la pensa come te. Poi ha avuto diverse facce. Chris Brosnan, pure se non mi sbaglio. Sì, sì, certo. È quello che mi è piaciuto di meno. Io non mi esprimo, però insomma. Adesso ha questo ruolo, questa faccia cattiva, questo uomo palestrato, pompato, più che mai. A me sembra un polacco, più che sai. Sì, è molto più cinematografico, molto più, diciamo così, per i tempi di oggi. Sì, diciamo l'ha reinterpretato in maniera piuttosto radicale. Sì, anche perché prima era un lord inglese, adesso è un cafone, buzzurro che sta lì. Pur sempre inglese, ma insomma, sì, è più un hooligan che un lord. Sì, esatto. Cioè, sta più lì per picchiare, per risolvere le situazioni in modo elegante. La stessa la storia del Martini, il primo episodio della nuova serie, che si chiama 007, come si chiama? Casino Royale. Casino Royale, esatto. Stesso questa, cioè il fatto del Martini, il classico Martini, tu ti aspetti che lui chiede il Martini, agitato, non mescola, non se ne frega niente. Chiede proprio un altro... Un Negroni, se non sbaglio, se non vado sì, oh, well. Un apertas. Sì, una tassone. Queste cose così. Ah, buon vecchio Daniel Craig. Sì, no, comunque ripeto, per me Sean Connery è una delle figure più importanti per gli 007. Tutti quelli che sono venuti sono stati un po' così. Cioè, onestamente, tutta la serie di Pierce Brosnan ne sono stati tipo una ventina di film. Io non li ho visti. Sì, proprio. Per non parlare di quelli con Roger Moore e Timothy Dalton. Insomma. Comunque, no, niente. Quelle serie lì le ho viste molto poco. Cioè, penso l'unico che ho visto di Pierce Brosnan è stato Goldfinger. Se non mi sbaglio, no. Goldfinger era con Sean Connery, penso no. Fosse GoldenEye. GoldenEye, è vero, perdone. Molto ignorante. Se lo sento, è un argomento che fa un po'. Vabbè, del resto si parla di Pierce Brosnan. Insomma, è un'ignoranza che è possibile scusare. L'ho seguito poco. Niente, queste sono le mie opinioni. Ora puoi anche dire le tue. Non è che... No, io non mi esprimo, provo a mantenere una posizione di imparzialità, però effettivamente sì, l'atmosfera degli 007 interpretati da Sean Connery era qualcosa di eccezionale. Secondo me si è persa proprio. Sì. Cioè, ora hanno voluto fare Batman, che è un agente segreto. Esatto, Batman in giacca e cravatta. Esatto, smoking. Lo smoking gli sta particolarmente stretto, sì, non riesce a male. Non riesce a contenere la massa muscolare. Anche quel costumino orribile che usa nel primo, che lascia un po' a desiderare. Vabbè, viva Sean Connery, speriamo che possa tornare nei panni dello 007. Del nonno di 007, demenza senile. Esatto. Un po' così. E abbandoniamo la Metro-Goldwyn-Mayer 007 e passiamo alla prossima notizia, una notizia che coinvolge un personaggio del quale abbiamo parlato la settimana scorsa, il regista, novello regista, ma soprattutto sceneggiatore Oren Moverman. Moverman ha debuttato alla regia appunto con The Messenger, Oltre le regole, un film uscito la settimana scorsa nelle sale e che ha ottenuto una discreta risposta non solo qui in Italia ma nel mondo intero, tanto da parte del pubblico quanto da parte della critica. Moverman torna al lavoro, ci torna da regista, perché molto probabilmente sarà chiamato a dirigere Rampart, un film, un crime movie basato su una sceneggiatura originale di James Ellroy, padre insomma della letteratura hard-boiled americana contemporanea. Ramparts sarà vedrà al centro della vicenda l'omonima divisione della polizia di Los Angeles coinvolta negli anni 90 in uno scandalo di corruzione. Ma Moverman non è soltanto regista, è anche e soprattutto sceneggiatore. Proprio da sceneggiatore pare sia stato chiamato ad adattare per il grande schermo un romanzo di un autore che personalmente ammiro tantissimo, e sto parlando di William Stewart Burroughs, più volte indicato dalla critica come il padre della Beat Generation, un autore straordinario. E Moverman appunto sta adattando per il grande schermo uno dei romanzi più famosi di Burroughs, Queer, Checca nella versione italiana, un romanzo pubblicato per la prima volta nel 1985. La sceneggiatura di Moverman sarà portata sullo schermo da Steve Buscemi, che curerà non solo la regia ma anche l'interpretazione, insomma sarà anche il protagonista, pare, del lungometraggio. Non è la prima volta che Burroughs viene portato sul grande schermo, lo aveva già fatto David Cronenberg nel 1991 con il suo Naked Lunch, il pasto nudo, tratto da quello che probabilmente è il più famoso fra romanzi, fra le opere di William Burroughs. E con questo chiudiamo la nostra rubrica delle news dal mondo del cinema. Prima di passare insomma ai film che usciranno nelle sale questo venerdì 23 aprile, volevo chiedere a Corrado qual è l'ultimo film che ha avuto il piacere di vedere al cinema, se lo ricorda insomma. Sì, l'ultimo film che ho visto personalmente è stato Green Zone. Devo dire la verità, un bel film, non me l'aspettavo, anche perché andavo lì con l'idea di vedere l'ennesimo Burn buttato. C'erano tutti i presupposti, sì, insomma, regia, sì, l'attore, sì, protagonista. Immagina vedere, sai, quelle cose, però tipo, anziché essere ambientato, ci vuole in Italia, o hanno fatto ambientato in Afghanistan, queste cose, quindi un militare che sa fare tutto. Invece sono stato piacevolmente colpito, perché un bel film, fatto bene, girato bene, vabbè, la regia anche dei precedenti film non ha mai dato modo di dire no, non è un buon regista. Sì, al momento, esatto. Io parlo da profano, non è che cioè solo da amatore del cinema. L'aveva diretto Bloody Sunday e anche uno dei primi film sulla tragedia dell'11 settembre, insomma, sì, con questo cinema che era sempre a metà fra cronaca e finzione, insomma, delle soluzioni piuttosto interessanti. Lui è molto bravo, a parere mio, ovviamente. Con questo qua, dicevo, si differenzia da tutto quello che ha fatto fino adesso, perché più, anziché essere una sparatutto, come se era prima, sai, si vedeva gente che sparava ad essenza, questo qua è molto più importato sull'intelligence, quindi molto più avvincente sotto quel punto di vista. Ovviamente poi c'è Matt Damon, che io purtroppo non è che lo stimo tantissimo, quella una faccia e la usa sempre, la faccia da idiota e la usa in qualsiasi film faccia. Mamma mia, prevedo querele. Sì, vabbè. querelami se vuoi, se vuoi vieni anche in studio a Radio 2010, c'è Alessio che ti vuole. Sì, tra l'altro salutiamo Matt Damon, che sì, sì, sappiamo ciao, essere un ascoltatore ciao, assiduo di Radio 2010. Io ti voglio bene, però cambia faccia, però poi sono opinioni mie, no? Non è... cioè, anche... Ah, poi un'altra cosa bella, sì, dimmi. Finalmente Matt Damon, detto in napoletano, acchiappi buffo, cioè... Finalmente c'è qualcuno che lo picchia. Quella bella faccia da schiaffi. No, nel senso che lui lo picchia, invece tutti gli altri tipo Borne cospirasi. Lui teneva sempre quella contromossa che... Invece no, qua chiappa schiaffi a destra e a sinistra. E se li tiene perché non può fare niente. Giustamente. E quindi no, sono stato piacevolmente contento. Sì, lo avevamo consigliato anche noi, mi pare 2 settimane fa, in occasione dell'uscita qui nelle sale. Davvero, penso sia un film che vale la pena di vedere. Sì, anche perché fondamentalmente c'è molto più trama di quello che sembra. Perché noi purtroppo siamo stati abituati, proprio mentalmente, ad essere invogliati ad andare al cinema dal trailer. Ma molto spesso il trailer non rispecchia quello che è il film. A volte purtroppo e a volte per fortuna. A volte purtroppo, a volte per fortuna. Questa volta è per fortuna, perché se tu vedi il trailer, vedi tutte quelle scene di sparatorie, uccisioni, e tu dici, ah, invece a chi piace il genere, per amor di Dio, forse rimane anche deluso. Però a me è stata una piacevole scoperta. Cioè, io sono stato piacevolmente colpito dal fatto che non era solo quello. In realtà c'era tutta una struttura... studiata, poi io per fatti miei, perché sono un malato, mi sono andato a vedere qual era la vera storia, però comunque io consiglio di andarla a vedere personalmente. Poi lo andate a vedere, vi fa schifo, scrivete un messaggio, dice "Guarda che cazzo hai consigliato?" Dico "Vabbè, a me è piaciuto, che cazzo vuoi?" Vabbè, apriamo allora questo canale di comunicazione fra, sì, il pubblico per e me corrado. Si deve andare a vedere, cioè si deve, se hai tipo, che ne so, se sei a Napoli, vai al Med e tieni 4 euro da buttare il mercoledì o il giovedì, vai, anziché andarti a vedere quei film stupidi che stanno facendo adesso. Magari non andate a vedere Cella 211 ecco, tipo, cioè, andate a vedere quello, è un bel film, è d'azione, però ovviamente più di intrigo, e quindi andate a vedere un bel film, io lo consiglio personalmente. Ok, quindi Corrado vi consiglia la visione di com'era? Green Zone di Paul Greengrass con Matt Damon, la coppia Palumbo che ha firmato. Palumbo perde colpi. Eh sì. Non è abituato ad avere una spalla, quindi sta un attimo... Va bene. Allora, siamo arrivati al momento di andare un attimo a dare un occhio a quali sono le uscite al cinema per questo fine settimana. In particolare abbiamo, con la redazione, abbiamo scelto di segnalarvi 3 dei 4 film in uscita questa settimana. E il primo è un lungometraggio che farà piacere ai tanti fan italiani del regista di culto Giorgio Romero, padre del cinema horror splatter degli anni 70 e 80. Il film di cui stiamo parlando, infatti, La città verrà distrutta all'alba, remake dell'omonimo film diretto da Romero nel 1973, questo remake invece diretto dal regista Breck Eisner. La storia è quella di un tranquillo paese della provincia americana, Ogden Marsh, sconvolto da un misterioso contagio che ne trasforma i pacifici abitanti in folli depravati assassini. E lo sceriffo locale è preso in trappola dunque da un lato dalla folla violenta, dall'improvvisa follia esplosa nella cittadina, e dall'altro dal governo che con una repentina azione militare prova insomma ad insabbiare l'accaduto. È un film questo che non tradirà le aspettative dei fan più esigenti del regista di culto, che proprio in una telefonata a Breck Eisner ha manifestato la propria soddisfazione verso un film, a detta di Romero, ben fatto e fedele nello spirito alla pellicola originale. Questo era dunque La città verrà distrutta all'alba, The Crazies il titolo originale della pellicola, che sarà al cinema a partire dal prossimo venerdì 23 aprile. Passiamo dunque alla seconda uscita cinematografica del weekend, dopo Scontro fra Titani, un'altra pellicola che affonda le radici nella classicità greca, stavolta più nella storia che nel mito, storia che viene nonostante tutto reinterpretata in maniera piuttosto libera. Il film in questione è Agorà, diretto da Alejandro Amenábar, regista piuttosto apprezzato tanto dal pubblico e dalla critica, vincitore nel 2005 dell'Oscar per il miglior film straniero con Mare dentro, ma anche autore della sceneggiatura e delle musiche di film come Apri gli occhi o Aiutami. Ma sto veramente perdendo colpi. Cioè, tu dovresti Di Others. Scusami, il famosissimo Alejandro Amenábar. Il film Agorà è ambientato ad Alessandria d'Egitto nel 391 d.C. e segue le vicende della sacerdotessa leggendaria Ipazia e del suo schiavo, uno schiavo che nutre per lei un amore segreto. Sulle loro strade si intrometterà però una violenta setta cristiana decisa ad assassinare la sacerdotessa, rea di non aver abbracciato la nuova religione. Dunque il film è Agorà, diretto da Alejandro Amenábar, con l'attrice premio Oscar Rachel Weisz. Rachel Weisz che tra l'altro pare debba interpretare il ruolo di Jacqueline Kennedy, moglie di John Fitzgerald Kennedy, nel prossimo lungometraggio del regista Darren Aronofsky, regista di culto, autore tra l'altro del recente The Wrestler, che ha insomma ottenuto il plauso tanto del pubblico che della critica. Perdonami, dimmi. Questa attrice, sì, è colei che ha fatto La mummia? Sì, purtroppo sì. Purtroppo, fatelo. Purtroppo per gli occhi di chi ha visto quel film e sì, i numerosi seguiti. Sì, ma la cosa brutta della mummia è stato il terzo, secondo me. Io non sono arrivato neanche al secondo. Il terzo, non ci sta neanche lei, però la figura della persona esiste. Ah, ok. Cioè, la moglie di lui, ma non mi ricordo bene come si chiama, c'è. Però è interpretata da un'altra persona, è come se tu domani non ci sei più e c'è un'altra persona che si chiama Luigi Palumbo e tutti lo trattano come Luigi Palumbo. Cioè, capisci? Questa cosa è imbarazzante quando succede questa cosa. Per me questa cosa è terrificante. Cioè, io sono abituato a vedere quella persona, poi non c'è più, ne mettono un'altra, però fanno finta che non è successo niente. Tra l'altro è la stessa situazione che si è verificata nei due episodi di Batman firmati da Christopher Nolan. Sì, vabbè, a parte questo, poi succede, nella storia ne abbiamo un sacco di questi eventi, tipo, come si chiama? Hannibal. Sì, cioè, esatto, sì, innocente, sì, c'è Hannibal e viene cambiata, cioè non è possibile, per me, vabbè, là è cambiato pure il regista, non si è capito niente, è un altro film. È verissimo. Però, cioè, che cavolo. Questo capito? Non aiuta l'illusione, diciamo. No, assolutamente no, anzi, dovrebbe stimolare la fantasia, più che altro. È vero. Vabbè. Piccola postilla, non c'entra nulla, scusate, prego, continuo. Va bene, dunque stavamo parlando di Agorà, un film di Alejandro Amenábar, nelle sale a partire dal prossimo 23 aprile. E siamo arrivati alla terza uscita, un'uscita tutta italiana questa, che vede protagonista un trio esplosivo di attori e di comici nostrani. Il film è Matrimoni e altri disastri, un film diretto dalla napoletanissima Nina Di Maio, giovane professionista del cinema, cresciuta come aiuto regista di Mario Martone. Il film è interpretato dal trio Margherita Bui, Fabio Volo, Luciana Littizzetto. Andiamoci a sentire qualche battuta dal trailer ufficiale di Matrimoni e altri disastri. Allora è vero quello che dicono di te? Cosa dicono di me? Ma sì, dai, che non trombi da anni, che sei una specie di suora laica. È prepotente, arrogante e poi è ignorante come una bestia. È stronzo. Trippa e fagioli all'uccelletto da Nerbone, ho già prenotato! È mio cognato. E Corrado, che ne pensi di Fabio Volo, che ormai ha monopolizzato il mercato dell'intrattenimento italiano, dalla televisione alla letteratura, adesso anche al cinema? Allora, Fabio Volo, per quanto mi riguarda, è una grande persona, cioè molto acculturato. Ha fatto bei programmi tipo italo-americano, italo-francese, molto interessanti a seguire tra l'altro. Erano su MTV? Sì, sì. MTV. I libri ho avuto modo di leggerli. Ovviamente non stiamo parlando di un grande scrittore, cioè non è che scrive questi grandi romanzi, questi capolavori assoluti, però ha la capacità di farti sentire la storia, fondamentalmente parlando da, diciamo, come se io scrivessi un libro, ovviamente è fatto meglio, ti riesce a coinvolgere, quindi mettendo situazioni in cui persone si ritrovano, queste cose così. E poi credo sia l'apporto fondamentale che lo scrittore sì, ovviamente, riesce a dare. Per quanto mi riguarda, io lo preferirei a un Federico Moccia, per dire, per me è un cretino, però ovviamente Federico, se vuoi venire a Mi sto stretto, salutiamo anche Federico Moccia. Alessio vuole tutti, quindi va bene, salutiamo anche, ciao Federico, anche io ti voglio bene. E niente, 3 metri sopra il cielo. Comunque niente, è bravo. Mi sono piaciute anche alcune interpretazioni di alcuni film suoi. Mi sa che anche in questo fa un recita in una parte che risulterà simpatica a molti. Sì, ovviamente non è che stiamo parlando del comico assoluto, cioè non è che stiamo parlando di quelle persone tipo Ficarra e Vicone, per farci capire. Stiamo parlando comunque di una persona. Però a parer mio, ripeto, è una persona molto acculturata, sa quello che fa. Non interpreta male i ruoli che fa. Anche perché abbiamo certi attori italiani che sono dei cani e recitano. Sì, è vero. Quindi, attori con la zeppola. Vabbè, lasciamo stare, quelli sono raccomandati dai fratelli, però. Fratelli con la zeppola. Fratelli con però la zeppola. Stanno dentro la macchina della presa, insomma. Vabbè, non si vede, solo quando va a fare intervista. No, perché. Però abbiamo avuto modo quando ho collaborato con Fosco D'Artiglio. Ah, giusto. Ho avuto modo di mettere qualche spezzone di un'intervista fatta. Lì fu feroce l'invettiva. Sì, vabbè. Però Fosco era così. Lo salutiamo, tra l'altro. Ciao Fosco, quando vuoi tornare, quando ti scarcerano per quello che hai detto, ci fa anche piacere se torni in radio. No, niente, comunque, lo preferisco ad altri attori. Non solo quello, anche Nicolas Favorinsi a me fa cacare, scusate se lo dico, però non lo sopporto più. Fa tutti i film e soprattutto per me ha sbagliato in un film dove ha interpretato delle canzoni di un autore, un cantante che a me piace, Daniele Silvestri, cantando Occhi da Orientale e altre canzoni sue. Cioè per me devi morire, scusa se lo dico così, ma quelle canzoni sono sue, gliele devi lasciare cantare a lui, non tu. Tu non sei nessuno, basta. Hai capito? Comunque se vuoi venire con la sua trasmissione, pure tu sei invitato da Alessio, adesso invita tutti, ripeto. Vabbè, prosegui, perdone. E dunque va bene, i nostri complimenti a Fabio Volo. Fabio Volo che tra l'altro in occasione della conferenza stampa per la presentazione del film Matrimoni e altri disastri ha affermato di stare lavorando con Michele Pellegrini e Massimo Venier all'adattamento per il cinema di uno dei suoi libri. Insomma, non si sa bene di quale libro si tratti, staremo a vedere. Io li ho letti tutti, personalmente, che comunque sono piacevoli. Cioè, tipo, se fai un viaggio in treno, ti leggi un libro di Fabio Volo, se ne scende tranquillo. Tipo, per me uno dei più belli è Un posto nel mondo. Bello, bellissimo. Ovviamente, ripeto, non è che stiamo parlando di alta letteratura, stiamo parlando di un libro da leggere così, che se ne scorre facilmente. Cioè, bambini e bambine, anzi, ragazzi e ragazze. State a sentire, zio Corrado. Anziché andare a comprare Io e te 3 metri sopra il cielo, oppure Scusa se ti chiamo amore. Tra l'altro, un film, un libro, cioè, secondo me porta alla pedofilia. Ah, mamma mia. Però sono punti di vista miei, mi prendo tutte le responsabilità, eh. Non è che, cioè, lui non c'entra niente, lui sta qui. Esatto, io lo ospito soltanto. sì. Ovviamente ti ospito io oggi, però. Ah, è vero. Tra l'altro ringraziamo anche, Corrado, che ha messo a disposizione il proprio appartamento per la trasmissione. Maledetto Milano, poi va bene, queste sono piccole cose interne che capisco, sono chi collabora, diciamo così. E parlando di appartamento, tu sei fra quelli che preferiscono la poltrona del cinema o fra quelli che preferiscono il divano di casa? Secondo me alcuni film andrebbero visti al cinema, poi se te li vuoi assaporare, diciamo così, non è che torni al cinema un'altra volta, aspetti che esce il film, te lo fitti, te lo compri e te lo vedi più e più volte. Magari tipo, aspettando in maniera distesa, rilassata, non quell'attesa maniacale che ti caratterizza, no, insomma, che stai io lì pronto all'alba fuori ai negozi. Io lo faccio. Lo sappiamo, sto parlando. Io lo faccio anche spesso. Per esempio, mo non l'ho fatto con Sherlock Holmes, questa cosa mi ha... Anche come mai? È perché non sapevo l'uscita, sono andato l'altro giorno a Blockbuster e è uscito. Oddio, lo devo comprare, quindi... Però per esempio, per dirti, chi ha un bel divano, guarda, bel divano. Che bel divano. Un bel televisore, guarda, cioè capisci? Un gran bel televisore. E io poi ho anche il Blu-ray. Quindi fondamentalmente a volte vale anche la pena aspettare, perché al limite te lo vedi, te lo gusti meglio, nel senso che lo apprezzi di più. Se passa quel tempo che tu al limite ti dimentichi anche alcune fasi, anche bello, cioè a me piace. Io colleziono i film per questo. Cioè a me piace che tipo dopo 2-3 anni vado a ripescare un film e lo rivedo. Wow, questa parte non me la ricordavo proprio, bellissima. È come il vino, è un po' come il vino un film, sì, invecchia e poi però insomma sviluppa delle Però vabbè. E parlando di poltrona, di casa, di divano, andiamo a dare un occhio a quanto di meglio ha da offrirci il palinsesto televisivo per la prossima settimana, e ringraziamo Eleonora che è andata a spulciarsi i vari TV Sorrisi e Canzoni, Venerdì di Repubblica. Un cazzo da fare. No, no, Eleonora. La stancano vista Eleonora Minucci, che ci fa anche la voce a Mr. Stretto lo Stivale. Ciao Eleonora, un bacio. Ciao Eleonora. Se vuoi venire in trasmissione, ah no, lei viene in trasmissione. Sì, lei è ospite fissa. Che fa anche il caffè, questa volta ci manca, però prometto alla regia che c'è Riccardo Cremona, Cioè, salutiamo Riccardo. La voce di Mr. Stretto lo Stivale adesso sta dietro un computer a fare il mio lavoro, perché io sto qui a cazzeggiare. Comunque, dopo gli prometto, lo dico in diretta, gli vado a fare un caffè. Anche a te se lo vuoi. Ti ringrazio. Però lo faccio. Alza il cappello e quindi penso che è una cosa gradita. Vabbè, proseguiamo. Proseguiamo. Allora, venerdì 23 aprile su Rete 4 alle ore 21:10 in prima serata. Questo è un classico diretto da Brian De Palma nel 1987, sceneggiato dal grande sceneggiatore David Mamet. Sto parlando ovviamente degli Intoccabili, un classico che vede nel cast nomi stellari del calibro di Kevin Costner, Sean Connery e di Robert De Niro nell'indimenticato ruolo del boss Al Capone. E della famosa frase: se solo chiacchiere e distintivo. Solo chiacchiere e distintivo. E Sean Connery, che tra l'altro vinse un Oscar come miglior attore non protagonista proprio per la sua interpretazione in questo Gli Intoccabili. La storia, per chi non la conoscesse, è ambientata a Chicago negli anni 30 e appunto ruota attorno all'agente del tesoro Elliot Ness e della sua squadra speciale decisa a combattere Al Capone con qualsiasi mezzo. Bel film. Un grandissimo film, un classico, sì. Firmato da Brian De Palma nel 1987. Questo era Gli Intoccabili, venerdì 23 aprile su Rete 4 alle ore 21:10. E passiamo invece alla notte di Rai 1, perché domenica 25 aprile alle 4 andrà in onda un film che è ormai un classico, una pellicola che la nostra Teresa in redazione si autosomministra con fare quasi terapeutico ad intervalli regolari. Il film in questione è Lost in Translation, diretto da Sofia Coppola, figlia d'arte, nel 2003. È generalmente considerato il secondo capitolo della sua trilogia della giovinezza inquieta, una trilogia che è completata dal Giardino delle Vergini Suicide del 1999 e dal più recente Marie Antoinette del 2006. Lost in Translation che sta quasi raggiungendo i picchi di, come si chiama, a Natale fanno sempre gli stessi film, tra cui Mary Poppins, quindi sta oppure quasi Una poltrona per due. Una poltrona per due. Grande, grandissima pellicola però, Oppure Il principe cerca moglie, sono tutti i film che fanno a Natale. I classici di Natale. Buongiorno New York, vaffanculo, sì, vaffanculo anche a te. Questo era Eddie Murphy in Il principe cerca moglie. E parlavamo di Lost in Translation, un film che ha riscosso notevole successo di critica e di pubblico, si è aggiudicato l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 2003, il Golden Globe per la categoria miglior film commedia o musicale. La storia ruota attorno alla coppia Bill Murray e Scarlett Johansson. Bill Murray interpreta la parte di Bob Harris, un divo della televisione americana sul viaggio viale del tramonto, arrivato a Tokyo per girare lo spot di un whisky, e nel suo albergo di Tokyo farà la conoscenza di Charlotte, una giovane donna in crisi con la propria vita e col proprio marito fotografo di moda. E insomma, fra i due, in crisi di identità, si crea questo rapporto particolarissimo che riuscirà ad avere un valore quasi terapeutico sulle loro vite. Bill Murray, ricordiamo che per chi non sapesse oppure non lo riconoscesse subito, sappiamo benissimo che Peter Venkman, il dottor Peter Venkman dei due episodi della saga degli Acchiappafantasmi. Speriamo, insomma, che arrivi anche il terzo episodio. Quella è un'arma a doppio taglio, secondo me. Infatti ho sentito la tua trasmissione e ne volevo discutere. Che secondo me è un'arma a doppio taglio. Dici. Perché se, a parer mio, è difficile ricreare la stessa atmosfera del primo e del secondo. Sicuramente questo sarà un... In generale. Un bel peso. Perché fondamentalmente, se tu adesso prendi quei film e li vedi, tu che ami questa serie o che sei cresciuto a questa serie tipo me, per me ogni battuta è uno spettacolo. Cioè, tipo la battuta che Winston sta lì a fare il colloquio, quella fa: lei crede in demoni, spiritelli, e lui risponde: se c'è lo stipendio fisso, io credo in tutto quello che dice lei. È una grande battuta. Però hai capito? Forse oggi non ha lo stesso impatto. Forse non ci sono i presupposti per un terzo capitolo. Probabilmente questa cosa la sanno anche loro. E la mia paura è che se la danno in mano a dei sceneggiatori sbagliati, creano un casino, perdono tutta quella magia che c'è dietro a questa cosa. Anche perché, leggendo il progetto del terzo, ne hai parlato stesso tu, si parla comunque dei ragazzi che vogliono assumere giovani apprendisti a Acchiappafantasmi. Già ringraziamo il cielo che non hanno fatto tipo come si portava negli ultimi 5 anni, The Beginning, il prequel, insomma. Quindi già questo, anche perché fondamentalmente il primo, a parte che loro non sono nessuno, quindi era stupido ripartire da ancora prima. Sì, esatto. Almeno su questo sono stati intelligenti. Il problema è che mo ci vuole o si cambia, cioè o si cerca di arrivare quanto più verosimilmente possibile a quelli che erano per quelli di prima, o se no si crea un casino. Cioè, almeno io personalmente vado fino agli studios della Columbia e li vado a sputare negli occhi perché mi hanno rovinato una serie. Sì, è vero, anche è vero, non hai tutti i torti. A parer mio il terzo si doveva fare a suo tempo, cioè è stato fatto l'ultimo nell'89, secondo me massimo 90-92 si doveva fare il terzo. E lì furono penalizzati da mezzo flop ai botteghini, insomma hanno incassato meno di quanto credevano di incassare. Però poi la storia gli ha dato ragione, cioè nel senso che il primo e il secondo insieme sono due dei film più belli che la cinematografia mondiale. Sicuramente fra i classici della fantascienza americana. Per me hanno creato un genere, cioè sì. Capito? Hanno cercato di mettere in modo allegro, vivace e simpatico un argomento che in realtà dai brividi a chiunque sono i fantasmi, quindi creare questa figura degli acchiappafantasmi così, in modo burlesco si può dire, secondo me è stata geniale. Sì, fu una grande intuizione quella. Cioè, da lì poi sono uscite la serie di cartoni animati che io personalmente vi guardavo, erano bellissimi i cartoni animati. Sono d'accordo. Però, ripeto, è un argomento molto delicato da toccare. Insomma, secondo me. Speriamo che facciano le scelte giuste, fra le quali quella, insomma, cioè, di non voglio farlo, quella sarebbe legittima. Quella cafonata che si porta adesso, capito? Effetti speciali a morire. Cioè, quando là c'erano effetti speciali. Sì, è vero, quello era anche uno dei punti di forza, insomma, l'elementarità degli effetti speciali, anche, dei trucchi, dei fumi. Più sono elementari, più col passare del tempo non ti accorgi di queste cose. Cioè, io notavo questo, se io mi vedo un film fatto 2-3 anni fa in computer grafica, tipo, no, pure qualcosina in più, tipo per dirti, all'epoca quando uscì un film che si chiamava Final Fantasy, okay, tutto in computer grafica, sì. Però se io me lo rivedo adesso, per me è una sigla di un gioco, una presentazione di un gioco, quindi te ne accorgi e ti viene da ridere. Invece se io mi guardo Ghostbusters, io rimango ancora piacevolmente colpito dal fatto che non riesco, oppure me ne accorgo, però, capito, è tranquillo perché sono così banali, così semplice. Ormai li abbiamo anche introiettati, quindi non riusciremo mai a metterne in discussione la qualità. Almeno questo è il mio punto di vista. Io appunto per questi effetti speciali dopo parlerò anche di un altro film che ho portato io personalmente. Non anticiparci. No, non anticipo, però proprio per mi collego a questo argomento, nel senso per dire che dopo parleremo di questo film che di effetti speciali non ne ha proprio, però credetemi è fatto benissimo, solo questo, poi prego. Va benissimo. E abbiamo parlato di Lost in Translation. Tra l'altro, piccola curiosità, la Coppola scelse di girare il film rispettando la progressione cronologica della storia per permettere, insomma, ai due attori che non si conoscevano nella vita reale di costruirsi progressivamente un rapporto durante le riprese e in qualche modo parallelamente al rapporto che si viene a creare fra i due personaggi nella finzione. Una scelta molto interessante. Concludiamo invece la sezione dei film in TV parlando della battaglia della prima serata di mercoledì 28 aprile. E qui a contendersi gli occhi degli spettatori, addirittura le tre reti Mediaset che si danno battaglia su Canale 5 per l'ennesima volta i 180... Scusate! che cos'era un cellulare? È la vibrazione. Insomma, su Canale 5 per l'ennesima volta 180 minuti di Troy, il colossal diretto da Wolfgang Petersen, ispirato in maniera liberissima all'opera di Omero, che vede nel cast star del calibro di Brad Pitt, Orlando Bloom ed Eric Bana. Su Rete 4 invece si mira ad un target più selezionato, più raffinato, con Jane Eyre di Franco Zeffirelli, tratto dal romanzo omonimo di Charlotte Bronte del 1847. Il film è diretto da Franco Zeffirelli, appunto, ed è uscito nelle sale nel 1996. Italia 1 invece concorre con una prima visione, Air Spray, Grasso e Bello, un film diretto nel 2007 da Adam Shankman, remake del film Grasso e Bello di John Waters, nonché ispirato all'omonimo musical di Broadway, che vede recitare John Travolta nei panni di una madre piuttosto sovrappeso, insomma, un film che si annuncia estremamente divertente. E prima di concludere il nostro consueto consiglio cinematografico della settimana, che lasciamo al nostro ospite Corrado, di che ci vuoi parlare? Allora, come annunciato io ho portato un film che fondamentalmente ha poco di effetti speciali, però secondo me è un film, uno, molto sottovalutato, perché ne è stato parlato poco, perché poca gente lo conosce. È un film tratto da un fumetto. Ora sappiamo benissimo, almeno chi non lo sa se ne può fare un'idea, i film tratti dai fumetti o sono totalmente uno schifo. Vogliamo fare qualche esempio? Prendiamo Spirit, ad esempio Spirit. No, alcune persone è piaciuto, però chi ha forse realmente letto il fumetto è rimasto non poco deluso. Ed è un peccato, perché ha diciamo, tra virgolette, infangato il nome di uno dei più grandi disegnatori di fumetti statunitensi, che è Will Eisner, che credo sia il padre di tutti coloro che hanno approcciato al genere della graphic novel nel corso, soprattutto, della seconda metà del Novecento. Sì, però ricordiamo di chi è la regia di questo film, no? Di Spirito, che stiamo parlando, no? Certo, del Frank Miller. Frank Miller è un fumettista, fondamentalmente. Fa i fumetti, sono belli, 300, tipo, bello, Sin City, bellissimo fumetto, però basta, la regia non è arte tua, almeno io questo è quello che penso. Frank io. Miller, se stai ascoltando, ti invitiamo. Sì, o qui, oppure se vuoi venire sempre a Mr. Stretto lo Siale, poi ti presenterai alla porta e adesso dirà chi è, non ti preoccupare, amico mio. Perfetto. Quindi, vabbè. Comunque, niente, questo film di cui volevo parlare è Dick Tracy. Ah, un grandissimo film. Dick Tracy ha un cast spaventoso, sia per l'epoca, che stiamo parlando del, scusate la mia ignoranza, ma non mi ricordo. Tu per caso te lo ricordi? Dovrebbero essere i primi anni 90. Sì, comunque più o meno sì. Non riesco a trovare bene sopra il DVD gli anni precisi, però stiamo parlando sempre intorno agli anni 90. Sì. E ha come cast, allora, gente del calibro di Al Pacino, gente del calibro di Madonna, Dustin Hoffman, tra parentesi, fa una parte piccolissima. Sì, quasi, cioè, un cameo. Quasi un cameo. Cioè, all'epoca era importante. Quindi, vabbè, far fare un cameo a un attore così, è tutto da dire. Oltre che lo stesso Warren Beatty che ne firma pure la regia. Warren Beatty, a parte firmare la regia perché da sue dichiarazioni era un fan della serie dei fumetti, ha voluto interpretare il ruolo di Dick Tracy. E Warren Beatty, che tra l'altro molto azzeccato, devo dire, molto bravo a fare questa parte. Sì, sì. E il film è ambientato in una fantomatica metropoli statunitense. Dove c'è impervia questa battaglia tra il bene e il male, riferito tra mafia, tra virgolette, molto grosse, e la giustizia e la polizia. Esiste questo fantomatico personaggio che è Dick Tracy, che è il famoso ispettore di ferro, quello che si portava un po' negli anni addietro, nelle graphic novel degli anni addietro, che vuole combattere da solo questo male che intavola una battaglia proprio, sì, capito, personalissima. Sì, dove noi poi dopo, tipo, in Italia abbiamo filmato pellicole del calibro, sai, un ispettore contro la mafia, queste cose così. Lui invece interpreta questo ruolo con il suo bel cappottino giallo canarino, questo cappello giallo canarino, dove hanno tra l'altro le armi che io adoro, che sono i Thompson, che sparano proiettili con la barra, su cui una scena dei personaggi, che uno si chiamava Zucca Piatta e l'altro Faccina, vengono uccisi e poi questi mafiosi scrivono sul muro con un Thompson, una cosa improponibile, una frase dedicata a Dick Tracy. Tra l'altro con una grafia, una precisione spaventosa, che io ora, se vado a scrivere, Olivetti lettere, io non riesco a fare. Comunque in realtà è un film molto bello. Sì, sì, sì, è straordinario, i costumi, la fotografia sono veramente, sì, eccezionali. Stiamo parlando comunque degli anni 90, non hanno voluto utilizzare scene grafiche a posto, proprio, cioè tutti i soldi sono stati spesi per gli attori, vediamoci chiaramente. Sì, sì, sì. È quasi come vedere, cioè quelle sono sceneggiature di teatro, fondamentalmente. Però non è che dà tanto fastidio questa cosa, anzi è anche piacevole, i colori, le scene. A parte che secondo me la sceneggiatura è bellissima. Sì, sì, è molto, molto accattivante, sì, molto stringente. Molto caratterizzati. Cioè il background di ogni personaggio secondo me è studiato molto bene. E la cosa che mi dispiace è che è un film che è stato messo molto in disparte. Cioè io ho passato gli anni a cercare questo DVD. Non l'ho trovato. Il buon Luigi Palumbo me l'ha portato da Londra. Direttamente da Londra. Infatti io lo ringrazio per questo. Prego. Perché sono appassionato di questo film. L'ho visto quando ero piccolo. Ora, è molto difficile da trovare in DVD, però ciò non toglie, facciamo una cosa che non si dovrebbe fare, però se lo trovate per da vie vedere, traverse, diciamo così, via secondaria, altre persone vi possono consigliare, vedere un po' così, vedetevelo, perché secondo me è un bel film, cioè da vedere, molto bello da seguire. Chi non l'avesse mai visto lo deve vedere assolutamente, se è appassionato di questo genere. Se è appassionato, sì, di film tratti da fumetti, di fumetti lo deve vedere a maggior ragione. Chi già l'ha visto e vuole fare un tuffo nel passato, lo facesse, perché è molto bello rivederlo. E dopo averlo visto potrà finalmente dire che The Spirit è un brutto film. Sì, sì, perché allora veramente questo film è stato girato oggi come oggi con cifre irrisorie. Sì, sì. Molti attori di questo film sono andati lì solo veramente per fare una cortesia al regista, no? Devo venire, sì. Quindi stiamo parlando, comunque è un gran film, tra l'altro colonna sonora della stessa Madonna che interpreta uno dei protagonisti della serie, personaggio chiave. Sì, sì, molto bello, cioè comunque bello, ben costruito, ripeto, i colori, le ambientazioni, bello, veramente bello. Cioè almeno questo è il mio consiglio della settimana, ovviamente non sono nessuno, però se lo volete seguire, per carità, un consiglio di grandissimo livello, insomma, piuttosto che consigliare film che già sono notoriamente come te nessuno mai potevo consigliare, sempre di Muccino, cioè, però no, ho preferito Dick Tracy, che è un gran bel film, lo consiglio assolutamente. Ovviamente poi no, se no scendevo nel banale se consigliamo Ghostbusters. A parte che ogni anno li fanno, quindi è inutile che lo consigli. Sì, magari infatti Dick Tracy è più però difficile. Però Dick Tracy è un po' più particolare. Io lo consiglio, ripeto, chi non l'avesse mai visto lo vedesse, cioè lo andasse a vedere. Se lo trovasse. Se lo prenda. Sempre per vie traverse. Bello, molto bello, la sceneggiatura bella. Abbiamo convinto gente del calibro di Giulio Pietrafeso, un altro nostro collaboratore, che ha detto bello. Questa cosa è grave. Notoriamente è difficile nei gusti, invece sì, si è piegato alla potenza di gente come Fiammetta Conte, un'altra delle nostre aiuti, abbiamo fatto vedere, aveva detto bel film, bello. E comunque niente, questo è il mio consiglio della settimana. Perfetto, e quindi Corrado vi consiglia questo Dick Tracy, diretto da Warren Beatty, ispirato all'omonima striscia a fumetti firmata da Chester Gould nei primi anni del Novecento. E con questo consiglio chiudiamo la trasmissione. Ringraziamo Corrado che ci ha offerto casa sua e che mi ha tenuto compagnia durante questa mezz'ora o poco più. Ringraziamo Riccardo alla regia. Salutiamo Fabio il disertore. Fabio, se sei ancora io, fatti sentire, anche perché ti devo consegnare una letterina. Però... fatti sentire, insomma. No, però in generale alla fine ce la siamo cavata, no? Ah, credo di sì, insomma. Meglio, mi spiace meglio di aver rovinato un programma così sì, raffinato, questi interventi un po' fuori luogo, però, ma è vabbè. Assolutamente una bugia. Soprattutto oggi sono nei panni di Corrado Parisi, non di DJ Corrado come di solito. Entra un attimo nei panni di DJ Corrado. Buonasera! È proprio lui. È una... così, però vabbè, oggi sono nei miei panni, quindi ho staccato l'abito da DJ. E ogni tanto fa anche bene essere se stessi. Anche mi piacciono altre cose, mi piacciono i film, faccio grafica, cose strane, però va mi bene. Piace la musica. Avremo occasione di riparlarne, insomma, se vuoi venire a trovarci ancora qui in trasmissione. E salutiamo tutti, speriamo di risentirvi la settimana prossima dall'Artiglio e da Radio 2010, ciao! State curiosi! 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10